casa ci sono dei cani e ci sono delle signore che gli danno da mangiare, e invece che mangiare i cani fanno le cornacchie a mangiare la roba dei cani, e poi se ne vanno sulle antenne, capito? Si tuffano come vedono, come spiccano il volo, poi due delle antenne che tremole già tutto. Ho deciso solo, fammi modificare, lo metti di ecco dentro. la uso per fare collegamenti a basso. Ma quale? Un iPhone. Ah, ma ti esce bene anche così quello lì? Guarda, sono tutti. Sono un mondo su un bravo ospizio, mi sono venuto la caglietti. Ah, beh, no, stavo per fare, non c'è problema, ma diciamo che va bene anche così, che non ha niente da... non ha niente da dire, non c'è niente da dire. Sarebbe stato meglio 48, ma io guardo le radio che hai sentito, il 48 non per me fa meno di tutte, però c'è una cosa, l'unica cosa che ha che ti dà splatter, se ne eliminassero quella cosa lì, ui, il 48 secondo me c'è meglio di tutte, se ne so che riescono bene, però a livello del 48 poco. Anche il 2001 c'è bene. Anche io 2001 qua c'è per Alan, dai. E sono più predisposti quelli lì da fare, dai. Anche quello di Pierpaolo c'è bene, ma è sempre dell'Alan. Non lo so, ma 2001 è una bomba da batte, sì. Qua ce l'ho, qua ce lo vediamo. Vediamo un po'. Ma cosa fare, no? Fare il caparoccio, il capo di positivo. Lui non trova decito, capo. Come mi stai ascoltando del radio? certezze tiro di sotto o si è rotta la resina, capito? Però l'antenna è sempre mantenuta dal malone. Ecco, quindi il contatto lo fa lo stesso. Se no io qui mi si sarebbe bruciato tutto, sarei carico di stazionarie. Ah beh, sì, beh. Gava, gava. E se tu mi stai ascoltando, Santiago 9, vuol dire che la terra sta irradiando. Sì, non come prima, verrà. No, non arrivo a 9,50, però irradiando sta irradiando. Però quelli che sono addirittura d'arrivo con l'antenna mia, chissà come mi ascoltano. Mi ha perso il mare. Ragazzo, ma io mi stavo lavando le bestemmie. Ragazzo, e vabbè, stasera mi dai una carezzata e si mette a posto. Ragazzo, devi andare bene là, certo perché sono in sacco. Così, ma non vedi fuori? A terra alta. Se non l'avessi vista non ci avrei creduto. Si mettevano a giocare, si dondolavano sopra la radiale, mentre si pone la panza all'aria e tocca a te che sono fatti. Si stavano proprio giocando, capito? Porca gaffa, proprio le radiali. Io purtroppo faccio passaggi corti già, però sia che succederà qualche cosa. Ma in realtà sono arrivato a casa, sono già pronto da mangiare e vi saluto anche, così almeno non c'è problema. Vi saluto e ci sentiamo a casa dopo pranzo. E là, buona carica, buon tutto, ciao già. Ciao ciao. Buone cose là questa sera, speriamo bene. Mario! Mario! Avanti! Archetto qua, niente, nada di nada, sono andato a casa sua, tutto molto. E non fa niente, perché non ti preoccupare, va. Già io salgo, controllo, vedo se posso fare qualcosa e poi vuol dire che faccio da solo, non c'è problema. Cappa, perché sono saliti, stavo appena scendendo, niente da fare, ma non è che ha avuto problemi magari questo ragazzo, si è ricoverato? Mio figlio mi ha detto che dovrei salire a casa sua, perché il citofono non gli funziona. Ah così, e allora ci torna a andare. Oh, va, rimani a mangiare, fregatene. Tanto io lì. Adesso siccome sono un po' sacco, mio figlio sta preparando qualcosa da mangiare così velocemente, così mi riposo un po' e poi salgo e do un'occhiata a vedere com'è e poi vediamo, vai. Non la perdo la testa con l'apparato e perché? Okay. No, perché devo portare il mio anche, non per altro. Se devi andare per il tuo e un altro paio di maniche, allora vai, sali su e con il campanello suo, perché se toccano da giù a lui non gli funziona. Cappa di rogero, allora faccio un'altra scappatina di nuovo, eh? Vediamo un po'. Poi al limite se c'è qualcosa che riesce a parlarci, fa entrare a radio così ci sentiamo, non c'è problema. D'accordo. Andiamo bene, io già ho la parata accesa intanto. Dico perché a Pompuno, se non è stato fermo mi sono stato a bagno. Come? Dico a Pompuno, spero passo qua. Stavo dicendo, dico a Pompuno, se da impianto se mi fa stare da bagno. Gappa, quello si fa tutto, Ma tu dici, siamo a fare, io no. Lo stanno a bagno da 100 litri almeno. Non ti preoccupare. Andrà bene, dai. Marchetto, chiude la trasmissione momentaneo. Ciao, ciao. Ciao. Io non usare il capo, Mario. Guarda te.